un'anima viva che danza nel buio. Le fiamme sussurrano storie antiche, portando calore alle ombre lontane. Abbraccio, ci troviamo rinati.